è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Adriana è siciliana, ma sua cugina è molto più carina, ma sua sorella fa la sentinella e se mi pesca mi tira una padella. A chi potrei telefonare per trovare un po' di compagnia? Stasera la mia festa è questa, maledetta lista non mi basta, però Antonella è molto bella, più di Marisa ma non come Marcella. Margherita fa la mala vita, Sandra e Sofia stanno in periferia. Maria Luisa iniziamo, aspettate un attimo, iniziamo che devo cercare un collegamento. Devo cercare un collegamento con un farabutto. Thank you for calling Hilton Athens. For English, press 2. Non lo trovo, è disperso. Intanto Vittorio Sgarbi vi offro, in apertura della zanzara di questa sera, 800 24 00 24. I magistrati spendono i nostri soldi per il loro divertimento. Dietro non c'è niente, però spendono soldi miei, andranno con le macchine pagate da me, andranno con le scorte pagate da me. Andranno a dormire in alberghi pagati da me, andranno a mangiare con soldi pagati da me, soldi nostri per il loro divertimento. È una cosa oscena. Per chiedere al Premier perché ha dato danari a Tarantini, perché mi dispiaceva che fosse in condizioni economiche disagiate e temevo che andasse a raccontare le mie private scopate. E che cosa vuoi fare dopo avere, dopo essere andato con qualcuna, diciamo così, scopare secondo la terminologia sgarbiana? Vuoi raccontarla naturalmente a mezzo mondo, sempre secondo Sgarbi. Cioè uno fa una cosa, uno fa un atto erotico sublime, uno si scopa la più bella donna del mondo, qual è la sensazione che ha? Sì. Di parlare. Certamente. È ovvio, no? Io mi scopo Madonna e lo racconto, che c'è di strano? Non è così strano, voglio dire, uno va da Berlusconi e lo racconta, ecco la ragione per cui esiste Tarantini e il tentativo di dire ti pago io perché così non racconti niente, invece andare a vendere le tue verità ridicole. Mamma Maria studia biologia, Elisabetta alla barbetta. Ancora Sgarbi, lecito pagare per difendere la privacy, tutto un ragionamento, sentiamo. È lecito che uno voglia difendere la sua privacy e se non vuole che Tarantini racconti un sacco di sciocchezze al mondo, se lei e il suo direttore di rete, proprietario della rete, vi baciate in pubblico e siete fotografati e vi portano le fotografie e si scopre che siete due culattoni, è forse possibile che voi vogliate comprare le foto per evitare lo scandalo di essere due culattoni. Quindi il dato di fatto è che uno è meglio che non lo prenda nel culo. Se lo prende nel culo però può anche darsi che non lo voglia far sapere, mi pare lecito. E per questo uno paga. Mi hai dato il numero sbagliato del centralino dell'albergo, Parenzo? Allo? Sì, allo, mi hai dato il numero sbagliato del centralino dell'albergo? Beh, a parte Calispera, questo. Calispera. Sì, Calispera. Ma buonasera, che numero? Buonasera a tutti da Atene! Ma che numero mi hai dato? Ma non lo so, se non sai scrivere i numeri. Allora, Hilton Hotel di Atene, 0030. Sì. 210, siamo in diretta? Sì, certo. Beh, allora perché ti do il numero? No, dammi il numero in diretta così le persone sanno dove possono... 0030. Sì. 210. Sì. Perché 2 è il previsto di Atene. 728. Sì. 130. Poi? Beh, il numero della stanza lo terrei riservato, se no tutta la notte mi rompo i coglioni poi. Questo pure è vero. Vabbè, poi riproviamo. Poi riproviamo. 06. Vabbè, non ho capito niente. Gaetano Pecorella, buonasera. Buonasera. Buonasera avvocato, come sta? Grande molto Parenzo. Bene, anche voi vedo. Signor Parenzo lo conosce? Sì, naturalmente. Sì, ho avuto occasione. Una lunga frequentazione. Insomma. Mai una lunga in frequentazione. Tribunale, però. Mai in tribunale? Vabbè, ho capito, ma magari ti difendeva, magari poteva farti un favore a difenderti dalle tue numerosissime cause. No, invece ti sei fatto. Non si fida. No, ma lo sai, si è fatto difendere una volta dall'avvocato della Valle, che per carità ha vinto una causa, però insomma è abbastanza esoso, come lei sa, se avvocato per no. tutti gli avvocati ma che dici? Cosa? Senta, avvocato Pecorella, ma oggi ha letto, no, di queste, in realtà c'è stata insomma ci si aspettava l'arrivo di un sacco di telefonate, invece di un sacco di intercettazioni, invece non è successo nulla, ci sono solamente delle trascrizioni. No, ma per carità, non è che le aspettavamo, però c'era una certa curiosità. Ormai si vive in questo modo, che vuole fare? Ormai non si compra più per i mail, si compra il Corriere della Sera, quindi... Ah, questa non è male, però, cioè, questa è buona. Cioè, lei dice, ormai che ci stanno a fare quei giornali lì? Basta comprare il Corriere della Sera, no? Tra le foto, ma soprattutto si leggono certe conversazioni e uno si accontenta, insomma. Basta 1,20 euro la mattina. Basta 1,20 euro invece di prendere Playmen, non so, quelle altre riviste tutte patinate. Quelle della Sera è anche serio, uno mentre se va in tram con Playmen ha dei problemi, e se ci va con Quelle della Sera è una persona seria, quindi non si deve vergognare, insomma. L'effetto è lo stesso, dice lei, insomma, il risultato, ma il contenuto è il contenuto. Senta, ma Berlusconi secondo lei dovrebbe presentarsi o no davanti ai magistrati di Napoli? Ma io sono convintissimo che si deve presentare. Ah, sono sì? Convintissimo che lui, certo, no, lui no, però lui un po' meno. Vabbè, in questo, per carità, io non ne parlo come avvocato, ne parlo sulla base di quel poco che ricordo, certo, del codice, dopo tanti anni di Parlamento. Cioè è costretto ad andare, lei dice? Beh, è il testimone, è un testimone come gli altri. Il fatto che sia Berlusconi, Presidente del Consiglio, eccetera, secondo me non cambia, certo, magari con qualche garanzia in più, tipo la presenza di qualche autorevole magistrato, perché sa. Come si può immaginare la presenza di qualche autorevole magistrato? Con legale non ci può andare, quello è accertato. No, secondo me, per esempio, siccome il procuratore generale ha, sia della Cassazione che di Napoli, ha la funzione di controllo, non sarebbe male, anche per garanzia dei magistrati, dei pubblici ministeri, che poi non si dica che l'hanno interrogato in un certo modo, che l'hanno tratto in inganno e così via. Sì. Io vedo come un atto giusto, perché ognuno è testimone, deve rendere le dichiarazioni sulle cose che sa. Certo, siccome gli effetti di un atto come questo, cioè di un Presidente del Consiglio, sono molto pesanti, ci vogliono le adeguate garanzie. Qua. Senta, ma... La garanzia è lui, cioè voglio dire, il testimone, sia esso Presidente del Consiglio, sia esso Ministro o cittadino, quisque populo, dovrebbe comunque sentirsi tutelato dal nostro sistema giudiziario, quindi andare liberamente e al più presto, no, avvocato? Cioè... Ma sì, questo è vero, ma devo dire che Berlusconi, per quanto riguarda la tutela della sua persona... Cioè sarebbe un precedente clamoroso. Qualche caso di... ma è clamoroso anche che si dica di un Presidente del Consiglio che si fa l'accompagnamento con i carabinieri, insomma, non l'ho mai sentito dire, o è rarissimo che lo si dica persino di un testimone meno qualificato. Cioè che si evochi questa possibilità, dice lei, cioè, è incredibile, insomma, comunque che la si evochi. No, io dico solo, prima di dire questo ci sono tante strade, come dire, che rispettano le due istituzioni. Comunque lei dice, Berlusconi sbaglia se non va, se resiste sbaglia, deve andare. Io credo che farebbe bene andare, lo ha detto, lo ha scritto. No, per adesso ha scritto e basta, poi adesso ci sono dei contatti. No, prima l'ha detto pubblicamente, poi l'ha scritto, se ci sono dei punti su cui è necessario un chiarimento, secondo me è ma il memoriale basta, secondo lei, secondo il giudice Lepore, secondo la procura non basta il memoriale? Ma guardi, io credo che un testimone è un testimone, quindi deve andare. Deve andare. Poi sono valutazioni che fa il suo legale. Io lo dico dal punto di vista, il codice non prevede eccezioni per nessuno per quanto riguarda la testimonianza. Certo, molto certo. Bene. Senta, avvocato, ma secondo lei lo vogliono, al di là delle questioni formali, lei giustamente da avvocato dice formalmente non c'è niente da fare, ma lo vogliono incastrare secondo lei? Mi dica la verità, con questo interrogatorio, è vero, lo vogliono interrogare perché come testimone è parte lesa. Sì, d'accordo, però lo vogliono incastrare, questa è una valutazione politica naturalmente, non da poca, cioè lo vogliono incastrare, vogliono coglierlo in fallo come testimone, insomma vogliono farlo passare poi da testimone a indagato, sì o no? È meglio non parlare del cogliere in fallo in queste situazioni, non mi pare. Questo anche è vero. L'espressione più adatta. Comunque, a parte le battute. Ma guardi, io è la prima volta che sento una persona... Mi è venuta così, insomma. È così. Una persona che è accusata di avere ricattato e estorto denaro che dice che non l'ha fatto. Ed è la prima volta che sento uno che sarebbe stato estorto che dice... che nessuno gli ha estorto una lira. Certamente è un po' singolare come situazione, anche perché chi lo avrebbe fatto vittima del ricatto non è Totò Riina, per cui ne deve avere paura. Quindi è un po' strana come situazione processuale, cioè l'accusato dice io non l'ho fatto, chi lo dovrebbe accusare dice ma io gli ho dati spontaneamente. Allora, i casi sono due: o si sta costruendo tutto un castello che ha solo scopo di tirar fuori telefonate gossip, oppure l'obiettivo è un altro, che è quello di cercare di arrivare a degli elementi a carico di Berlusconi per quanto riguarda i suoi rapporti con un imputato per vicende che lo riguardano. Secondo lei cosa sceglie tra tutti e due? Forse tutti e due, certo, il gossip c'è già e il resto si vedrà come si svilupperà l'inchiesta. Certo, quello che a me preoccupa di tutta questa vicenda è che continuino a interrogare come testimoni gli avvocati. Insomma, gli avvocati almeno una volta in un paese liberale democratico erano una garanzia di riservatezza. Oramai interrogano uno dietro l'altro. Non so i nostri clienti come si fideranno più di dirci le cose sapendo che potremo essere interrogati. Allora, abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24, la Zanzara, l'avvocato Pecorella con noi in diretta a commentare le ultime vicende che riguardano il Presidente del Consiglio, non solo il Presidente del Consiglio però. Era una pecorella nera, nera, nera, nera, ma venne il lieto giorno che il pastor mi ritrovò e all'accademia. E invece la ritroviamo qui, non la Pecorella, ma Gaetano Pecorella, avvocato del PDL, insieme a David Parenzo, che è in collegamento da Atene. Drammatico collegamento questa sera da Atene, cercavamo il centralino dell'hotel Hilton. Beh. Hotel Hilton, e sottolineo Hotel Hilton da Atene. Da Atene, no, vabbè, 5 stelle, va bene. Sottolineo Hotel. Mi piace sempre mangiare pane e cipolla. No, per carità, per carità. Senta, avvocato Pecorella, ma lei alla versione, ci sono due versioni contrastanti, quelle dell'accusa che dicono che in realtà c'era questo giro di prostituzione gestito da Tarantini che forniva prostitute al Presidente del Consiglio, e invece il memoriale degli avvocati del Premier che parlano di cene conviviali, di serate eleganti. Lei che dice? Beh, insomma, abbiamo letto qualche intercettazione in passato dove qualche vicenda a sfondo sessuale c'è stata, ma io credo che questo non sia deplorevole, cioè sì, però ha senso insistere ancora su questa storia delle cene conviviali e delle serate eleganti? Perché la linea difensiva del Premier si concentra sul dimostrare l'indimostrabile? Ma io non posso entrare, diciamo così, nelle scelte processuali. Personalmente sono convinto che dire la verità su queste cose è la scelta più felice, cioè è vero, io sono andato a letto con la signorina X e questi sono fatti miei, questo io la vedrei così. Ecco. La signorina X, con la signorina X abbiamo recitato il rosario, e non ci crede nessuno, insomma. Ma io infatti è da tempo che sostengo questa cosa. Sarebbe, insomma, andare poi, lei alla storia della prostituzione ci crede? Cioè che poi lui, che Berlusconi, insomma, non sapesse che queste ragazze, che di pagare queste ragazze o attraverso regali diretti o indirettamente attraverso... Lei ci crede sul serio a queste cose o no? Ma diciamo la verità. Diciamo. Quanti sono i casi in cui una donna per una sera, per una settimana o quello che è, va con un uomo senza aspettarsi in cambio un qualche riconoscimento, che può essere una bella cena, un braccialetto... È molto difficile pensare a una serata fine a se stessa, cioè che dove non ci sia un rapporto sentimentale, dove non ci sia un rapporto continuativo, che non abbia come contropartita un qualche vantaggio per questa donna. Beh, cioè, insomma, avvocato, oggettivamente questo qua secondo me invece è la normalità. Cioè il 90% delle relazioni umane, io credo, si basano sul fatto che due persone escono, un uomo e una donna, senza nessun tipo di contropartita. E parliamo per autobiografia personale qui, No, sto parlando di una cosa diversa, sto dicendo che un conto è un rapporto tra un uomo e una donna basato su dei sentimenti, sulla continuità del rapporto, sul vedersi, sul parlarsi, eccetera, un conto una serata in cui arriva una ragazza che più o meno, voglio dire, si aspetta, io penso che questo succeda abbastanza frequentemente, può darsi che non sia così, però non troverei niente di scandaloso. Basta aprire un giornale o un internet per vedere migliaia e migliaia di offerte, nessuno sa scandalizzare. Quello è un'offerta. Nessuno chiude i giornali, nessuno chiude. Scusi, dunque, secondo lei Berlusconi dovrebbe dire: io queste donne le pago, punto, non c'è niente di male, gli faccio dei regali, no, giusto? Secondo me può dire, io direi. Lei direbbe, certo. Se fossi in quella situazione, sì. Mi sono trovato, ho passato una buona serata con questa persona, sì, e ho fatto un regalo. E a voi che cosa interessa? No, questo io la vedo, perché tante volte si costruisce un castello, una serie di fantasie, eccetera, sulla normalità o comunque su un fatto che di per sé interessa solo chi lo fa. Beh, poi ci sono le ipotesi di reato di induzione alla prostituzione per quello che riguarda Tarantini ed altri. Come dice l'avvocato Ghedini, non riguarda l'utilizzatore finale. Lei ci crede a quella toccata? Riguarda altri, l'accusa riguarda altri, tra cui un suo assistito, ma riguarda il favoreggiamento, riguarda lo sfruttamento, sì, ma certo, non riguarda tra cui un suo cliente. Vabbè, questo non ne parliamo, sennò affrontiamo un discorso lunghissimo che riguarda il signor Fede, che non c'entra assolutamente nulla. Dovremmo andare a fondo, sarebbe un discorso molto complicato. Senta, ma su queste intercettazioni, pare che Napolitano si opponga, Berlusconi voleva fare un intervento, ormai non è più tempo, mi dica lei, me lo dica dalla sua viva voce. Guardi, io penso che sulla pubblicazione ci sono stati molti abusi nel farle, e ci sono stati anche non pochi abusi nel pubblicare intercettazioni che andrebbero distrutte perché non sono di rilevanza penale. Però certo non si può neanche, come succede in Italia, fare il pendolo, no? Allora siccome si è andato troppo da una parte andiamo troppo dall'altra. Ma sulla pubblicazione si può intervenire adesso? Ormai non si può più intervenire, in questa legislatura almeno il governo Berlusconi non può più intervenire. Certamente non con un decreto legge, perché mancano i presupposti, peraltro riconosciuto anche il ministro della giustizia. Ha ragione. Senta, devo concludere in due secondi, avvocato, dopo c'è la pubblicità, ma qualcuno dice, data questa situazione, sarebbe meglio per il paese che Berlusconi si facesse da parte. Lei fa parte di questa corrente di pensiero? Io penso che nelle situazioni di emergenza ci vogliono dei governi di emergenza. E dunque? Berlusconi in grado? Per esempio, non necessariamente si deve fare da parte Berlusconi, ma certamente un governo di larghe intese farebbe bene in questo momento dell'Italia. Con Berlusconi? Beh, no, senza Berlusconi, evidentemente. Questo dipende dagli accordi politici che sono molto complicati. Ma cioè, meglio in questo momento, meglio un governo di larghe intese, magari con un tecnico? No, io penso che il Presidente del Consiglio debba essere un politico. Un politico? Deve dare l'indirizzo politico. Dunque Berlusconi è meglio che si metta da parte per un governo tecnico di emergenza nazionale, un governo di emergenza nazionale, lascia perdere un politico. Io ho detto che è meglio fare un governo di larga intesa. Di larga intesa. Dopodiché, siccome nella larga intesa c'è anche il Presidente del Consiglio, può rientrare la presidenza Berlusconi o un'altra presidenza. O un'altra presidenza, questa è una questione che vanno decise a secondo delle forze politiche. Cioè, è difficile che Berlusconi sia in un governo di larghe intese, oggettivamente. Va bene, grazie avvocato Pecorella, a presto. Ecco. Grazie. Arrivederci. Giornale Radio. eccoci qui 19:17, tentiamo di nuovo il collegamento con Atene, con l'hotel Hilton, dove si trova il signor David Parenzo. Dopo questo annuncio da parte dell'avvocato Pecorella, uno degli storici avvocati di Berlusconi, del PDL, che ha detto meglio un governo tecnico, un governo di larghe intese, anzi non un governo tecnico, ma di larghe intese. Hotel Hilton, Atene. For English, press 2. Andiamo avanti. Για μεμονωμένες κρατήσεις δωματίων, πιέστε ένα. Για κρατήσεις group, συνέδρια, γάμους και δεξιώσεις, πιέστε δύο. Για το Χιλτόνια Spa, πιέστε τρία. Αλλιώς περιμένετε να συνδεθείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Dunque, che succede? Ah, eccolo. Hilton di Atene. Non risponde nessuno, come al solito. Parenzo rinchiuso nella sua stanza. Ma mi avete fatto il centralino dell'albergo di Atene o un altro numero? Hilton Athenon, καλησπέρα σας. Mister Parenzo. Mister? Parenzo. 507. 507, grazie. Pronto? Allo? Sì? La 7? Come? La 7? Posso passare al dottor Ghigliani? No, sono Parenzo, chi parla? La segreteria del dottor Ghigliani. Ma che segreteria? Perché? Non ho capito. I titoli del TG3. Va ora in onda il TG3 di Bersani. 30 ragazze per il premier, il rifiuto di Emanuela Arcuri nell'inchiesta escort di Bari, colloqui tra Tarantini e Berlusconi, 100.000 intercettazioni. Caso Unipol BNL, il GIP respinge l'archiviazione, processate anche Berlusconi, quelle intercettazioni, un regalo al premier in vista delle elezioni. Premier assediato dall'inchiesta, ma il PDL smentisce il blitz sulle intercettazioni, Bersani non c'è più spazio per leggi ad persona. Contro i tagli, i sindaci in piazza in tutta Italia, sono a rischio servizi essenziali, dicono i primi cittadini, protestano anche regioni e province. Valanga di dollari da Banca Centrale Europea e Federal Reserve americana per dare ossigeno alle banche europee in difficoltà e le borse volano. Ad Avellino chiude un altro stabilimento Fiat, l'Irisbus, che produceva mezzi pubblici senza lavoro 700 dipendenti più l'indotto. No del CDA della RAI al contratto per Parla con me della Serena Dandini, Petroni dare spazio a risorse interne, Garimberti scelta incomprensibile. Era una pecorella nera. Ma bene, caro Parenzo, non so se tu hai sentito, a proposito di pecorella nera o bianca che sia, la curiosa teoria, al di là di tutto quello che ha detto sul governo, sul fatto che Berlusconi dovrebbe andare a testimoniare, la curiosa teoria di Pecorella, dell'avvocato Pecorella, sui rapporti tra uomo e donna. Beh, curiosa. Sì, abbastanza curiosa. No, ma rispetto alle cosiddette meretrici, credo. Beh, insomma, secondo me era un po'... A un certo punto lui ha detto, beh, ma diciamoci la verità, nei rapporti tra uomo e donna, dov'è che non c'è, come dire, l'interesse... Dov'è io che non c'è? D'azione di regalo. Esatto. Sentiamolo e risentiamolo. Ma tu non hai mai fatto un regalo a una fidanzata? Scusa. Ma che c'entra? Ne sono due cose completamente. Una amichetta con cui magari volevi flirtare, ma lui non è... un regalino. Ma certo, ma lui non intendeva questo, naturalmente. Sentiamo comunque. Comunque diciamo la verità. Quanti sono i casi in cui una donna per una sera, per una settimana o quello che è, va con un uomo senza aspettarsi in cambio un qualche riconoscimento, che può essere una bella cena, un braccialetto, cioè è molto difficile pensare a una serata fine a se stessa, cioè che dove non ci sia un rapporto sentimentale, dove non ci sia un rapporto continuativo, che non abbia come contropartita un qualche vantaggio per questa donna, cioè può succedere. Guarda che si riferiva in generale, non a rapporti... Ha ragione professor Pecorella. Ma che significa ragione su professor Pecorella? Su tutta la linea, cioè ci sono alcuni rapporti in cui ci sono alcune magari... Ma non è alcuni, lui dice, diciamoci la verità, oggi non esiste un rapporto diverso se non quello in cui la donna si aspetta un regalo da un uomo, questo dice, un regalo, certo, di qualsiasi tipo. Un regalino, voglio dire, quando tu vai a cena su, con una ma è una cosa obbrobriosa, dai. Ma un amichetto può essere anche offrire una cena, comunque io qui sto vivendo un dramma da te. Che è successo? E lo denunzio. denunzio subito. Denunzia subito. Nella dai. Stanza dell'albergo, sì. L'unica rete italiana che si vede è il TG1 di Menzolini. Ah, ho capito. Ma quello spesso succede. No, è una succede... cosa di una gravità inaudita. Ma si vede, no, si vede Rai 1, non è che si vede il TG1 di Menzolini, so. Si vede Rai 1. Solo Rai 1, solo Menzolini si vede. No, ma Rai 1, ma guarda che Menzolini non è Rai 1, è il telegiornale della prima rete, ma è, e non come è... faccio io adesso qui stasera? Ma non è questa, non sarà questa la tua preoccupazione. Comunque dacci l'orario esatto ad Atene, per favore. Dunque, local time sono le 20:23. Le 20:23, infatti qui sono le 19:23. Infatti vorrei andare anche a mangiare. Io vorrei farti risentire Sgarbi, che non hai sentito, no? Adesso mi vengono a prendere troppo esponenti del governo. Ma non me ne frega niente, resti bloccato alla Zanzara come al solito fino alle 22 local time, cioè orario di Atene. Allora, ti voglio fare risentire Sgarbi, che non hai sentito, prima di dare la parola agli ascoltatori. A proposito dei magistrati, delle inchieste, di quello che è uscito oggi, che avete sentito riassunto dal TG3, 100.000 intercettazioni, che è uno scandalo, 100.000 intercettazioni per scoprire che Berlusconi va a donne, amico mio. 8 indagati, tra cui la nostra amica Sabina Began, che portò delle ragazze a Palazzo amica, Grazioli. Amica, conoscente, va bene. Adesso non ti tirare indietro. Glielo dico adesso che tu la rinneghi come amica. Ma no, ma lo sei amica. E poi c'è il caso delle Arcuri, che pare, sembra che rifiutò di prostituirsi. Così dicono i magistrati, naturalmente. Perché pare che Tarantini le avesse detto: guarda, se vai con Berlusconi condurrai il Festival di Sanremo. Poi in questi casi c'è un millantato credito pazzesco. Comunque, in ogni caso, che vogliamo sentire? Abbiamo detto Sgarbi, la teoria di Sgarbi su tutto questo affare delle intercettazioni. Senti. Cioè, uno fa una cosa, uno fa un atto erotico sublime, uno si scopa la più bella donna del mondo, qual è la sensazione che ha? Sì. Di parlare. Certamente. È ovvio, no? Io mi scopo Madonna e lo racconto, che c'è di strano? Non è così strano, voglio dire, uno va da Berlusconi e lo racconta, ecco la ragione per cui esiste Tarantini e il tentativo di dire ti pago io perché così non racconti niente, invece di andare a vendere le tue verità ridicole. E poi ancora Sgarbi, che non hai sentito, spendono i soldi nostri per il loro divertimento. Dietro non c'è niente, però spendono soldi miei, andranno con le macchine pagate da me, andranno con le scorte pagate da me, andranno a dormire in alberghi pagati da me, andranno a mangiare con soldi pagati da me, soldi nostri per il loro divertimento. È una cosa oscena. Per chiedere al Premier perché ha dato danari a Tarantini, perché mi dispiaceva che fosse in condizioni economiche disagiate e temevo che andasse a raccontare le mie private scopate. Sempre numero uno, professore, eh? Beh, descrive le procure come fossero Pornolandia. Pornolandia no, però diciamo che qualche curiosità nei confronti della vita sessuale di Berlusconi ce l'hanno le procure, caro Parenzo. Qualche curiosità ce l'hanno, amico mio, qualche curiosità. Parliamo del signor Tarantini, non di Berlusconi. Mamma mia, ma tu pensi davvero che alla procura di Napoli interessi il signor Tarantini? Ma non lo tu so, pensi so. Davvero che interessi il signor Tarantini? Dai, ma su, so non fare l'ingenuo. Tanto denaro che è passato da Palazzo Grazioli, così sì, si dice, certo, alle tasche del signor Tarantini. E allora? So che caravan, camionate e allora? Di signorine... 30, sembra, 30. Camionate di signorine sono entrate in diverse occasioni per cene eleganti a... No, non dire cene eleganti al signor Pecorella, all'avvocato Pecorella, che anche lui quindi si arrabbia. Voglio dire, ha ragione, professore, io sono della linea del professor Pecorella. Siccome sono un liberale, sono della linea del professor Pecorella. E dico, spieghi come stanno le cose e finiamola con questa storia. Ma le inchieste... È semplice. Però semplice. Ci sono le inchieste, cioè tutto questo è incardinato in inchieste. Comunque... Sentiamo Della Valle. Alcuni ministri di questo governo non sono adatti. Da 8:30 ieri sera. Andrea, non il tuo avvocato, quello che è stato il tuo avvocato, ma Diego Della Valle. Quali saranno i guidatori che dovranno fare in modo che questa manovra poi arrivi in porto? Io credo che in questo governo ci siano alcuni ministri preparati che sanno cosa fare, saprebbero cosa fare se potessero lavorare anche meglio, e alcuni altri che non sono adatti, non sono adeguati. Possiamo tutti i mestieri. Fare qualche nome per capirci meglio? Ricadiamo, più o meno li conosciamo tutti. Tremonti, che è una figura chiave di questo governo. Tremonti conosce il suo mestiere, non c'è dubbio. Voglio dire, Maroni, che conosce il suo mestiere, Galan conosce il suo mestiere. poi ce ne sono altri. La lista di Diego Della Valle. Salvini, ieri sera da Matrix, il destino della Padania è quello di separarsi. Sentiamo. Si può cambiare questa Italia? Non ci credo. Io da europarlamentare vivo in Belgio una volta a settimana per lavoro. In Belgio che cosa succederà da qui a poco? Che consensualmente le due diverse realtà del paese si separeranno. Le Fiandre che producono e la Vallonia che vive assistita si separeranno perché non stanno più insieme. E io penso che la via della Padania sia segnata e sarà questa. Il separatismo via. Di Salvini. Via, via Vallonia, va via la Vallonia, via. Via la Vallonia. Ma scusa, via, cosa c'entra via. Adesso la Vallonia? La Vallonia. Scusi, Bossi, cosa c'entra la Vallonia? Fa il culo la Vallonia, via, via. Il meridione, il sud, la Vallonia. Ma veramente? Le Fiandre. Solo il nord. Le Fiandre del nord, della Padania, le Fiandre. Sì, vabbè, Fiandre, anche la Vallonia a nord Europa, insomma, in Belgio. A Radio Padania, buonasera. Ma non è Radio Padania, è Radio 24. Ciao Renzo. Ma bravo, non, sei no, bravo Renzo. Ma non c'è ancora non c'è Renzo Bossi qui. Ma chi è? Cruciani. Legnate, ecco il calderone, te l'ho detto mille volte. Vai a dare delle legnate, sto crucepando la Roma, andalo via. C'è Renzo, Iridio Libertà, tutti alla radio della Confindustria. Borsa, torniamo tra un attimo. 800-24-00-24. Siamo qui, caro Parenzo, sì. In diretta da Atene. 800-24-00-24. Clelia da Bologna, buonasera. Clelia. Cruciani, buonasera. La signora Clelia, buonasera. È la prima volta che io telefono a una radio, tanta è la mia indignazione. Che è successo? Che non riguarda lei. No, nonostante io sia un po' agé, ho ancora capacità di indignarmi. Ma no, ma perché agé? Mi creda. mi riferivo all'intervento, l'intervento del critico d'arte. Sì. Il quale si indigna perché i magistrati hanno le macchine blu, perché noi li paghiamo. Ora io con i miei occhi ho visto l'eminente critico. No, non mi sembra che si indigni per le auto blu, scusi. Cioè, no, si indigna dicendo che siamo noi che lo paghiamo, che li paghiamo. Che paghiamo i magistrati. Certo. Che poi fanno un certo tipo di indagini. Certo, questo. Io non mi riferivo ai magistrati, possiamo parlarne bene, possiamo parlarne male, ho lavorato 37 anni in un tribunale, ma non voglio parlare di questo. Cioè il critico che si indigna per tutto questo, oltre a fare dei commenti sulle donne che ritengo molto volgari, sì. Ma lasciamo stare, girava con la macchina blu, con la scorta per il mercante in fiera, col cellulare, la scorta lo aspettava, la macchina blu lo aspettava, è stato indagato, non so se condannato, perché mandava dei certificati falsi e pigliava regolarmente lo stipendio mentre era da un'altra parte. Secondo me queste persone dovrebbero avere un attimo di senso del pudore. Bene, Clelia, la ringrazio. Non so se lei è d'accordo o no. Ma guardi, cioè non do... Il senso del pudore andrebbe riscoperto, perché quando uno ne ha fatti di ogni con i soldi della pubblica. Lei dice Sgarbi non ha il diritto di parlare nel modo in cui ha parlato dei magistrati che stanno conducendo le indagini su Berlusconi perché ne ha fatte di tutti i colori. No, non ho detto che non ha diritto di parlare, non ha detto dei che lui magistrati, parli, dei magistrati in quel modo, in questo volevo dire. Non no, ha diritto... io allora che voleva dire, signora? Scusi, non ho capito. No, allora, io voglio dire questo, che il pulpito dal quale viene questa predica è un pulpito che ha approfittato in ogni maniera, consona e non consona, mandando certificati falsi, dei soldi di chi paga le tasse come me. Quindi io queste morali le vorrei sentire da altri pulpiti. Grazie, grazie. Prego, buonasera. Allora, andiamo a Modena. Giorgio, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica signor per la sua arguzia. Devo dire questo, io sono un dirigente dell'Unione di Centro. Sì. E francamente rimango basito nell'ascoltare Pecorella, nell'ascoltare insomma quello che sta di questi giorni, mentre sono sempre più convinto che la scelta di fare politica con Pier Ferdinando Casini ed altri sia assolutamente corretta, giusta. Sì, però Giorgio, adesso non è che ci deve venire a fare il lei dice sono dirigente dell'Unione di Centro e Casini è buono e gli altri sono degli stronzi. Ho capito. No, lei, cioè dirigente dell'Unione di Centro, non è che ci viene a fare la predica su Casini, amico no, mio. No, non ho fatto nessuna predica su Casini, ho detto che noi dell'Unione di Centro siamo gli unici che in questo momento vogliamo il bene del paese, metterci attorno a un tavolo. Ma che cosa strana? Ma che cosa strana che lei mi sta dicendo questa cosa da dirigente dell'Unione di Centro? Adesso chiama uno del PDL che dirà noi del PDL siamo gli unici al bene del paese. Ma siamo la follia o no? Noi dell'Unione di Centro siamo gli unici. Gli altri ma che vuol dire? Ma lei è dirigente dell'Unione di Centro, Giorgio? Mi sta a fare il comizio alle 19.39, amico mio! E cosa devo fare? E cosa deve fare? Dire che Sgarbi è una persona che assolutamente il diritto di dire ciò che dice. Ma a parte che ha il diritto di dire quello che... No, il diritto ce l'ha perché la libertà c'è. Meno male. Neo gracias. Non di certo grazie alla sinistra. Scusi, signor Giorgio, però abbia pazienza, lei può dire quello che vuole qui, però lei dice sono un dirigente di Unione di Centro e noi siamo, facciamo delle cose, diciamo delle cose, siamo gli unici che diciamo delle cose per il bene del paese. Amico mio, è un comizio questo qua. È la realtà. Ma la realtà è la sua realtà, caro Giorgio, è la sua realtà, abbia pazienza. Si vede come va il paese ascoltando altre realtà. Ma che vuol dire, Giorgio? Ma ho capito, ma sarà pure così, ma è evidentemente una realtà che lei vive in quanto dirigente dell'Unione di Centro. Ci mancherebbe altro che dicesse no, sa, io sono dell'Unione di Centro. Vuole bene al suo paese. Vuole bene. Invece gli altri che fanno? Sono tutti vogliono bene. Vogliono male all'Italia dicendo ma quello che dicono e facendo quello che stanno facendo. Vabbè. Questa gli altri è la realtà. Gli altri vogliono male all'Italia. All'Italia. Vogliono male all'Italia. Va bene, d'accordo. No, aspetta, però parliamo un po' del programma dell'Unione di Centro, no? Sì, parliamo. No, adesso vuoi uccidere la trasmissione. Mi vuoi ammazzare la puntata? Senti, ho trovato straordinario, caro Giorgio, voglio coinvolgere anche lei, una foto con la signorina Minetti, Nicole Minetti. Lei la conosce, no, signor Giorgio? Anche se lei è dell'Unione di Centro, conosce la signorina Minetti? La conosco di fama, non la conosco di persona. Beh, peccato perché è una bella ragazza. Cioè, peccato per lei. Io sono contento di mia moglie, non ho... Vabbè, ma io ho detto conoscere, non ho detto che lei... Mica un reato, Non è un reato conoscere la signora Minetti. Ci mancherebbe altro. Che gira per Milano con una consigliere regionale del PDL con una bellissima t-shirt, una bellissima maglietta in cui c'è scritto senza t-shirt sono ancora meglio. Bene, Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Però caro Giorgio, vabbè. Non mi troverai indignato per questo. No, non ti voglio trovare indignato. Pierluigi da Latina, buonasera signor Pierluigi. Sì, ecco, un attimo che mi fermo. Allora, Latina, città di Pennacchi. Sì, la città di Pennacchi, anche il grande Pennacchi. Non solo la città di Pennacchi, adesso non esageriamo. Pennacchi non è che Latina è conosciuta per essere la città di Pennacchi, insomma. Non esageriamo. Però che Latina non è conosciuta, però. Vabbè, comunque. Vabbè, signor Pierluigi, che ci sta dicendo? Ma io avevo effettivamente chiamato ieri, mi hanno richiamato oggi per dire della faccenda di D'Alema che parlava della Costituzione che impediva ai froci di sposarsi. No, scusi, invece... impediva a chi? Ai froci e alle lesbiche di sposarsi. Perché usa questo termine? A persone dello stesso sesso, insomma, di sposarsi. Perché usa questa... Perché usa questo termine dispregiativo e volgare? No, non è né dispregiativo né volgare. Beh, insomma, Termine froci è un termine da razzista schifoso. No, vabbè, adesso è razzista schifoso, non esageriamo. Beh, chiedo scusa se ho dato dello schifoso, razzista sicuro. No, vabbè, ma non è detto. Beh, uno che dice froci alla radio. Come qualsiasi altro, come l'interista laziale, insomma, cose di quel genere. Non lo giudico volgare. Beh, insomma, il modo in cui l'ha detto... Il modo in cui l'ha detto è dispregiativo. È abbastanza dispregiativo. Cioè... No, era solo descrittivo. Non ma perché non dice due omosessuali invece di due froci? Ah, perché mi è venuto froci molto più semplice, molto più naturale, molto più meno volgare di omosessuali. Insomma. Omosessuali mi sembra più un termine medico, un termine scientifico, quelle cose. Beh, medico, scientifico, adesso non esageriamo. Comunque. Sì, è un termine di quelli che vengono usati in ambiti scientifici, medici, in ambiti lì, più che in si chiamano omosessuali. Vabbè, comunque non è che la parola froci di per sé sia dispregiativa. Comunque lei vuole utilizzare la parola froci, vediamo il suo ragionamento, lo sentiamo. Sì, cioè io intendevo dire che effettivamente la Costituzione non pone nessun limite né di genere né di numero, perché parla di coniugi, di famiglia e di matrimonio, insomma, non è che dice che devono essere uomini e donne, non è non deve essere votata alla procreazione, il matrimonio e tutte quelle altre cose, per cui D'Alema, citando la Costituzione che impediva questo, non era per niente esatto, anzi ci sono solo delle leggi delle quali io mi libererei al più presto e permetterei a chiunque di sposarsi in qualunque genere e anche quelli che lei chiama in qualunque numero. Adesso i matrimoni collettivi ancora non sono stati concepiti. Beh, speriamo, insomma, che ci arriviamo, insomma. Beh, voglio dire, cioè, matrimoni plurimi e collettivi ancora non sono stati, come dire, no, scolpiti nella legge. Grazie Pierluigi, che è partito dalla parola Froci per poi arrivare alla conclusione che bisognerebbe introdurre i matrimoni omosessuali. Otello da Firenze, il signor Otello, buonasera. Buonasera signor Cruciani, anche all'ateniese lì. Dico, stasera la serata è da incubo e mi sorprende che non ci sia disponibilità di ambulanze, insomma. Perché, dice lei, Otello? Perché ci sono stati tre interventi, una di una prolissa impiegata del tribunale che difendeva a spada tratta una casta che non c'è dubbio sia costituita dai magistrati che si comportano nei confronti degli altri cittadini molto spesso con un atteggiamento assai particolare. Il secondo, quello dei Froci, insomma, il terzo, lì sto facendo un po' di confusione. Tuttavia vorrei portare un elemento mio personale, cioè di vergogna profonda che mi impedisce di uscire di casa. Io sono un pensionato baby. Ah, lei è un baby pensionato. Scusi, ma quanti anni ha? Non per farmi gli affari suoi. Non si è mai chiamato, è vero? Quanti anni ha lei, signor Otello? Io ho 71 anni e mi sto derubando di una pensione da ben come 3 anni. Ed è anche una pensione discreta. Mi sento veramente come un verme. Cosa ne pensa? No, scusi, mi ripeto un attimo, da quanto tempo è in pensione lei? 23 anni. Cioè, da 23 anni in pensione? Non ho capito. Sì, quando sono entrato in pensione all'età di 48 anni. Che devo fare, Otello? No, ma la cosa mi fa sentire come un verme in questo momento. Vabbè, ma le leggi glielo permettevano, un verme. Addirittura io non mi sentirei un verme. Sono le leggi sbagliate, non chi ne usufruisce. Sì, oggi però dire di essere un pensionato e di riscuotere una pensione da 23 anni pur avendone 72 è cosa incomprensibile per molte persone, ma erano le norme, dice bene lei, al giorno in cui entrai in questo. Certo, sì. Devo dire che questo per me è stato in un impiego pubblico e cosa non ho visto nell'impiego pubblico, devo dire, mi fa stimare Brunetta, mi fa stimare tutte le cose che vengono dette oggi, tutte le prese di posizione che in generale si prendono. Grazie. Leonardo, sempre da Firenze, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io mi volevo rifare alla dichiarazione di Pecorella prima sul fatto che Berlusconi debba pagare appunto per queste prestazioni sessuali. Cioè, io non ci trovo nulla di strano, perché alla fine nessuno dice che Berlusconi ha 75 anni, no? Quindi per andare, allora? Che una ragazza giovane vada con una persona così anziana e nemmeno prestante, mi sembra che sia l'unico sistema possibile. E allora? Cioè, questo volevo dire, cioè si sta a disquisire tanto sul fatto appunto perché paga o non paga, cioè alla fine questo, se vuole fare sesso tutti i giorni, deve mettere mano al portafoglio. Quindi come velleità di Latin Lover direi che dovrebbe andare un po' in pensione, no? Più che continuare a fare dichiarazioni di grande tomber da famo, grande conquistatore. No, scusi, però, non ho capito niente, Leonardo, del suo ragionamento. Non ho capito cosa c'entra con le inchieste, cosa c'entra con quello che sta succedendo. Ma non è il fatto di dire cosa c'entra con l'inchiesta, è il fatto che alla fine è un pensionato di 75 anni, ultramiliardario, al quale piacciono le ragazzine giovani. Questo è il sistema che ha per accedere a queste ragazze e pagarle. Cioè, quindi questo qui non lo dite mai, però alla fine funziona così, cioè magari anche un altro pensionato che vuole dare va con una prostituta giovane, la paga, è la stessa identica cosa. Ma se fosse questo non ci sarebbe nessun questo problema? Prego? Fosse questo non ci sarebbe nessun problema, no? Se fosse no, ma questo infatti, cioè, moralmente, finché lo fa con i soldi suoi, è libero di farlo. Mi dà più fastidio quando lo fa con i nostri. Ma tipo non lo il fa caso con della i nostri. Minetti, che lei considera una bella donna, Cruciani. Io trovo che le belle donne siano altre, perché la Minetti è un surrogato di donna. Un surrogato. Un attimo solo, 30 secondi e torno subito. Siamo qui. Allora, io non ho capito bene il ragionamento. Tu l'hai capito, signor Leonardo Parenzo? No, ho capito che parlava confusamente di rapporti di una persona anziana che in quanto anziana necessariamente deve pagare. Questa è la grande tesi dell'intellettuale. Non è carina, cioè non mi sembra, ecco, quindi questa funziona così da sempre, non è che l'ha inventata Berlusconi questa cosa. Ma finché paga con i soldi suoi va bene. Il problema è quando paga con i nostri, vedi il caso. Ma non paga Minetti, con i vostri, non è che no, lui dice, insomma, siccome ha piazzato ad esempio, la Minetti, è stata messa lì, grazie a dei favori. Vabbè. Quindi alla fine, e tra l'altro non la trovo nemmeno bella, perché Cruciani, le donne belle sono vabbè diverse. Ma io ho detto che è bella, insomma, una bella ragazza, c'è poco da fare, poi può piacere o non piacere. Ma fare stizzo, cioè una che si fa un seno enorme, una bocca a canotto, cioè se questa è l'immagine, cioè per me le donne belle sono altre. Vabbè, sì, si può discutere naturalmente, adesso non stiamo a discutere sulla bellezza o meno della Minetti. Cioè, è un'estetica, non è una questione di gusto personale. Non è una questione. Grazie Leonardo, andiamo a Bari, Tiziano, buonasera. Buonasera egregi, non voglio premettere che non sono un politico, non sono iscritto a alcun partito, giusto per... Ma guardi che di solito non succede, La scenetta di prima con il dirigente dell'UDC che ha detto che Casini è buono, bravo e... Ma sì, infatti è un po' paradossale, sarà anche vero, però è una persona sì, di ma parte. Appunto, Niente, volevo fare riferimento a prima, perché in effetti sia Pecorella che Sgarbi hanno confermato una cosa che effettivamente tutti sanno, ma nessuno dice, cioè i peones, i supporters di Berlusconi non parlano, cioè nel senso che lui, a questo punto Pecorella, che è il suo avvocato, ha detto ha pagato, bene, e Sgarbi ha detto che ha pagato perché era costretto per non far sapere le sue cose, quindi il quadro giudiziario è completo, lui era sotto ricatto. Ora, dottor Cruciani, lei prima ha detto che siccome si sono accaniti troppo i magistrati, perché tutto sommato lui non ha fatto nulla, ma lui era sotto ricatto perché Tarantini lo ricattava. Adesso, pertanto, questo qua, il ricatto, questa è la gravissima. Tesi, questa è la tesi della procura, scusi. Cioè questa qua è la tesi della procura, certo, la tesi dell'accusa. Che pensa che ci sia un ricatto nei confronti di Berlusconi, è la tesi dell'accusa. Il signor Tarantini lo nega, il signor Berlusconi lo nega, poi noi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, le intercettazioni dimostrerebbero che, i fatti dimostrerebbero che, le donne portate, la deposizione di Tarantini, Berlusconi voleva e non voleva questo quell'altro, però qui c'è la tesi dell'accusa e c'è invece gli altri che dicono un'altra cosa, per cui questa cosa, per cui bisogna sempre stare dietro la tesi dell'accusa, prima o poi bisogna cambiare pure questa cosa qui dal punto di vista dell'informazione, o no? Sono d'accordissimo, però i fatti sono questi. Allora noi diciamo la stessa cosa, soltanto che qualcuno dice non è ricatto questo, perché io aiutavo volontariamente, cioè è come quando una persona che è estorta sotto estorsione dice no, quello non è il mio estorsore per paura, cioè non è la stessa cosa ma è un parallelo, cioè lui non dirà mai che quella persona mi ha ricattato. Vabbè, ma sta entrando nel merito della questione del ricatto, dell'estorsione o no, come avviene, come non avviene, quello che può dire in quel caso chi estorce, chi subisce un'estorsione, un altro discorso questo qua. Qui abbiamo la tesi dell'accusa e quelli che dicono il contrario. Dopodiché poi possiamo credere, a partire dai fatti, a partire dalle nostre intuizioni, dalle carte, una cosa oppure un'altra. Dopodiché stiamo parlando di una situazione che non è nemmeno arrivata a un processo, siamo in una situazione assolutamente... Tutto avviene fuori dall'aula, come al solito, fuori da un'aula di tribunale. Comunque... Beh, senza dubbio lei ha perfettamente ragione. Parenzo, dove sei? Un attimo solo. Parenzo? Sì. No, sono sempre qui in albergo, sto aspettando, l'unica roba che si può vedere qui alla televisione sono talk show greci, però capisco poco, sento grandi urla e come gente molto agitata e sono imprigionato dal TG1. Vabbè, ma adesso non ti... Io non capisco perché negli alberghi internazionali ti fanno vedere solo il TG1, è una cosa pazzesca, io voglio vedere il TG della 7 ad esempio, adesso chiamo tu e faccio... Dico, consiglio di chiamare la reception quando vengo su. Ma infatti facciamo subito, perché è una cosa è vergognosa, un albergo internazionale e ti vendono Minzolini, ma io non lo so. È roba da pazzi. Vabbè. Ci sarà dietro la strategia di qualcuno. Non lo so, ti presento una tua conoscente, una persona che conosce, c'è la signorina Terry De Nicolò, buonasera. Quella, buonasera. Ben ritrovata. Come stai, ragazzuoli? Ben ritrovata, come va? Stai attento, Parenzo, ad Atene, guarda le spalle. Perché? Che succede ad Atene? È sopravvissuto ad Atene, stai attento. Ma che è andata a fare lei ad Atene? Che è andata a fare? Ho vissuto un po' ovunque, dai. Ad Atene? Sono una zingara. Terry De Nicolò ha frequentato anche il premier Papandreou, magari, scandalo socialista. No, no, no. Anche lì lei ha frequentato il potere, o no? È brutto. brutto, stanno messi peggio. Ah, è brutto Papandreou, dice lei. Sì, invece brutto. Berlusconi è una bellezza. Beh, non creiamo subito dai. Una crisi internazionale. Invece Berlusconi è una donna. È molto meglio. Ah, adesso Berlusconi è meglio di Papandreou. Ma di che parliamo? Una cosa pazzesca. Sì. Sì, dai, almeno si veste bene. Cioè lei dice, se dovesse scegliere andare con Berlusconi o Papandreou, andrebbe con... Vabbè, ma che domande, dai. Non vabbè, c'è dubbio. La signora Ferri di Regolò che mi parla di Papandreou, però... Non lo so, una bottiglia di Baldo. Quella gliela do in testa a Parenzo. Vabbè, insomma, signora De Nicola, qui leggo dalle deposizioni che lei ha fatto oggi pubblicate su Libero, credo solo da Libero alcune cose, che lei avrebbe fatturato per il signor... Per il signor Tarantini. Ma scusi, falsa, l'avrebbe detto lei, virgolettato nella deposizione. Lei ogni volta avrebbe fatturato 24.000 euro per un rapporto che è durato complessivamente 6 mesi. Per le mie prestazioni ho emesso in favore della System Medical un'unica fattura di 24.000 euro. Beh, ma non è tanto. Senti, allora vanno detto 6 mesi di rapporto. No, aspetta, non ho partita IVA, sfido chiunque, se volete vi do il mio codice fiscale, non ho partita IVA, quindi veramente non saprei come mettere fattura. Due, ma allora ha detto 24.000 euro in 6 mesi, ma che ci faccio? Ho sentito prima Pecorella, ma che uomo, ma quando un uomo viene a cena con me, lo sapete cosa mi mette sotto il piatto? Che mette? Braccialetto di diamanti, cioè minimo. Beh, è quello che ha detto Pecorella. 24.000 euro in 6 mesi, un barbone, veramente. Beh, un barbone. Sono sempre Scusi, signora De Nicola, però sempre 4.000 euro al mese. 24.000 euro in 6 mesi, comunque io lo dica uno che 4.000 euro al mese. 6 per 4, 24, lei non si accontenta. È da barboni, no, ma è dai, da barboni. Ma parliamo di cifre, signora mia, è piuttosto caruccia lei, Non è vero. Ma allora, scusi, ma è una cosa virgolettata che di una sua deposizione. E quella è la cosa grave, infatti. Ma com'è grave? Che vuol dire che tutto... No, scusi, non è vero, capire. Mi scusi, è stato aggiunto a penna da qualcuno, io non l'ho mai detto, cioè, ma lei si rende conto? Ma lei nega? No, ma lei si rende conto della cifra? Vuol dire 4.000 euro al mese. Mi fa cagare quella cifra lì, va bene? La cosa pazzesca, cioè, torniamo tra un attimo, sta diventando il mio mito assoluto, Terry De Nicolò, il mio mito assoluto. Che dice il senatore Butti? Il senatore Butti gli ha mandato un messaggio dicendo chiamatemi. Benissimo, lo chiameremo più tardi. Intanto, fra poco ritorna il mio mito, la signorina Terry De Nicolò. Pubblicità. Siamo qui, caro Parenzo, da Atene, da Bari, la signorina Terry De Nicolò. Di nuovo al centro della ribalta, signorina De Nicolò, ne escono di tutti i colori su questa inchiesta barese su Tarantini. Siamo ancora all'inizio. Lei dice che siamo ancora all'inizio, perché dice? Sì. Perché? Beh, ci saranno altre sorprese, spero, se no cioè? Il divertimento è. Altri nomi, queste famose ragazze o signore della Bari Bene, alla fine pare che non ci siano, comunque non c'è niente. Vabbè, secondo me hanno voluto un po' insabbiare, dai. Al momento. Avranno i loro santi in paradiso, sì. Insabbiare, non è che si può sempre insabbiare tutto, eh. Si può sempre, se si vuole, si insabbia tutto. Vabbè, insomma, lei in 6 mesi ha affermato, tra virgolette, adesso lo nega, di aver incassato fare la escort 24.000. Vergognosa, è una cifra vergognosa. Questa ce l'hai preso molto di più, sta dicendo questa, lei. Ma questa è la Jumpy Generation, sono 20.000 euro il mese, cioè non 24.000 euro, no. Secondo lei è un po' pochino, ma non è vero, secondo me c'è stato uno scambio di persona. Cioè lei è arrabbiata, cerchiamo di spiegare. Ma scusi, c'è una deposizione pubblicata oggi da Libero, virgolettata. No, ma sai perché è arrabbiata? Perché? Io ho capito, perché dice non è possibile, il mio valore di mercato è totalmente diverso, vergogna, valgo molto di più di quella cifra. Ma è lei stessa che lo ha detto, virgolettato, pubblicato oggi sul Libero, una deposizione della signora... Ma non l'ho detto, giuro, non valgo di più. Mi devo recare in procura, perché non è vero maledizione, secondo me hanno preso un abbaglio. Se forse non è, lei una buccia di banana, ha dichiarato... La famosa buccia di banana, carina. La famosa buccia di banana, vabbè. Ma quanto vale allora una notte con lei? Vabbè, ma lei vuole sapere troppo così. No, il valore è lei ha detto una cena si deve cominciare con un braccialetto sotto il Ecco, vedi? Appunto. Cucciani è più attento. Poi? Di Lorenzo. Poi una notte, poi, se uno dice una notte con la signora De Nicolò, un mazzo di fiori, no? Un mazzo di fiori. Ma che mazzo? Ma che ci fa? Ma che mazzo di fiori? Un libro, un ma libro. Che libro? Di che stai parlando? No, su. No, un libro no. Un dai. Libro no, ma io non... ho la casa piena di libri. Ma e allora di che parliamo? Non ho capito. Dai, c'è stato uno scambio di persona. C'è stato uno scambio di persona, vabbè, devo andare in procura, è assurdo, vabbè. Io non ho mai dichiarato... Ma se io invito la signora De Nicolò fuori a cena... Ma tu no, ma non sei in grado di no, uscire? No, ma non sei in grado. Non sei in grado, non ti regge ma il poi, portafoglio. Non è che mi chiede, non è che mi chiede 1000 euro, scusa, perché certo. Mi sentirei offeso. Vabbè, dopo ma sì. Ma dai, no, non ti regge il portafoglio. Devi avere un portafoglio più pesante di quanto pesi tu, più pesante di te. Se no? Non c'è niente da fare, su. Lei si è di nuovo, ma lei ancora fa ogni tanto fa la escort? No, no, no, no come no? No, no, no, no, no, no, non più, non più. No, non più. Non ho ha più bisogno. Ho cercato di cambiare vita, dai. Senta, ma ci crede a questa cosa dell'Arcuri che è venuta fuori, della signorina Arcuri? Che Tarantini avrebbe detto vai con lui, cioè con Berlusconi avrai Sanremo e lei avrebbe rifiutato? La cosa strana è che lei abbia rifiutato. No, non lo so. Non, beh, non, adesso, non... questa, lei, è molto lei è molto cattiva su questo, signora De Nicolò, eh? È una cattiveria nei confronti... No, sono cinica, sono cinica. Sono cioè è strano cinica. Che l'Arcuri abbia rifiutato. Lei. Sono cinica quasi quanto no, lei. Quasi quanto meno. Senta, credo. Io penso che qualcun altro avrebbe accettato il volo, giusto? Cioè, se io anche lei forse avrebbe no, accettato. No, io no. Perché lei non piacciono gli uomini. No, non mi piacciono gli uomini e per il momento diciamo il sesso a pagamento non è che mi entusiasmi. No, però. Non faccio il moralista. Su. No, no, non mi entusiasma, ma non ho nessun tipo di pregiudizio, per carità. Non, tutt'altro, però... No, qualcun altro sicuramente avrebbe accettato al volo. Io ora non so quale sia la verità. Lei dice, la cosa strana è che Emanuele Arcuri abbia rifiutato, questo ci ha detto prima, adesso non si tiene indietro. Se era quello che gli è stato proposto, ma no, guarda, no, ma non credo neanche che abbia proposto una roba così secca, così poco elegante, tipo se vieni a letto con me, conduci il festival, non credo che sia no, questo avrebbe una detto roba per una scopata, non credo proprio. Mm. Non credo, Berlusconi è comunque generoso... generoso comunque al di là di tutto, quindi non ha bisogno di questi mezzucci. Senta, comunque però io non ho capito il tarifario per una notte, questo non lo capisco. Ma dipende dalla persona, ma poi naturalmente l'altezza, Parenzo. Non è in grado di comunque. Non capisco, io non sono abbastanza così da un uomo di mondo, ma vabbè, comunque. Senta, è indagata anche la signorina Began, Sabina Began, che Parenzo conosce molto bene, tra l'altro. Quindi? No, è indagata per credo. Beh, bisogna ora vedere. Lei la conosce, signora Began? No, non l'ho mai conosciuta. Mai no. Conosciuta? No, no. Beh, comunque 24.000 euro in 6 mesi, secondo lei non è possibile perché sono troppo? Sarebbe uno schiaffo alla sua professionalità. No, dai, sarebbe uno schiaffo, cioè mi sarei messa in tutti questi casini alla fine, no, dai, non è vero, io non l'ho mai detto, ma poi chi ha detto che io ci abbia guadagnato qualcosa? Beh, soltanto certa stampa per gettare fango. Ma basta. No, ma scusi, ma adesso abbia pazienza, lei per un periodo sarebbe normale, ma lei... Se uno fa un lavoro viene pagato. Ma lei non è coinvolto in nessuna inchiesta, nel senso che non è una persona che è indagato, ha dei problemi giudiziari da questo punto di vista, è stata reclutata, tra virgolette, se la dico così brutalmente, da un signore che si chiama Tarantini per passare delle serate, delle giornate, delle ore, tra l'altro con alcuni politici, diciamo la verità, signora De Nicolò, questa dov'è è la situazione. Dov'è il reato? Dov'è il reato? Non è un reato e non ci trovo assolutamente nulla di male, se vogliamo uno può fare quello che vuole nella propria vita, quindi magari sì, sono state delle leggerezze, però voglio dire, costruirci tutto un castello... Vabbè, quello è un altro discorso, quella è una cosa delle inchieste. È sbagliato, insomma. Poi lei prima o poi ci deve dire la verità su questa storia di Berlusconi, eh? Lei non lo vuole ammettere, prima o poi io capisco che è complicato, perché dire sono andata con Berlusconi è complicato, però prima o poi però ormai forse si può dire ma che si può dire, tra l'altro lei lo disse, io gli ho detto cosa ne penso di voi giornalisti la scorsa volta, se vuole glielo ripeto. No, per carità, lei lo disse già una volta. No, allora non mi provochi. Cosa pensa di noi giornalisti? No. Mi stuzzichi. Luigi, no, non vi faccio essere volgare. Comunque usate la gente quando la gente non serve più, quindi siete peggio di delle donne, cioè, per le chiamiamole così, dai. Ma noi non sfruttiamo nessuno. No, assolutamente no, per screditare qualcuno. Ma io no, il signor Parenzo, siamo, come dire, dei giornalisti, che non è che facciamo le inchieste, le cose che cerchiamo per forza di i verbali. Noi siamo il terminale di queste cose, trasformiamo questi verbali ogni tanto, naturalmente, con tutte... Li trasformate, sì. No, cioè, le trasformiamo in una sorta di grande cabaret. Di grande cabaret. Cose, no, stronzate, noi non aggiungiamo nessuna cosa. Scusi, signora De Nicolò, oggi leggo, a un certo punto, l'interrogatorio dei PM di Bari. Giampi pagava 1000 euro le trasferte a Roma. La De Nicolò, io ho fatturato 24.000 euro, tra virgolette. Ma lei non mi sta... è vero, ma non è vero. Ho capito, ma... Non è vero niente, non è vero niente. Queste cose qui mi fanno incazzare, perché... Ho capito, ma allora che... E allora cosa ha detto in procura? Che cosa ha detto? Quanto ha fatturato? È stata portata in procura, allora, o no? Non ho detto, e ti dico che mi recherò in procura, perché non ho mai detto di questa fatturazione. Ma scusi, ma mi dica, uno come fa a fatturare se non c'è la partita IVA? E che ne so io, ma... non lo so. Magari sono regali, cioè lei ha detto fatturato, però in verità no, sono soldi che le sono stati dati come regalo. Ma, penso che conoscerò la differenza tra fatturato e regali, no? Sì, certo, sì. E poi se non lo sanno loro, quelli che ti interrogano, la differenza, voglio dire, io sarò pure ignorante, però... ho capito, però qui questo c'è scritto, non penso che il giornalista se l'ha inventato. È molto grave, perché non sì, però una volta, scusi, lei fate me la vedessa fattura, signora De Nicolò, lei è abbastanza bizzarro. Una volta c'è una deposizione in cui lei dice di essere andata a letto con Berlusconi e poi nega che ci sia questa deposizione. No, io non sono stata a letto con Berlusconi, a questo punto lo direi, assolutamente no. No. Ma allora è una follia, scusi. Dalle intercettazioni, quindi. Magari verrà fuori, che ne so. Ma allora è una follia. Cosa è una follia? Ma è una follia che uno paga 1000 euro solo per stare a cena con la signora Di Nicolò, per carità, è un intellettuale. No, perché è una follia? Perché è una follia? Perché è una follia? Perché ma perché se io devo andare a cena con una bella donna devo pagare 1000 euro? Ma che c'entra? No, questo è possibile. Dai, ma fa un po' scenografia, invece di presentarti un po' con un mazzo di rose, ti presenti con una bella busta, dai. Ma io pagherei 1000 euro, che so, per andare a cena con Bernard Henri Lévy. Ma con che c'è? Con Sigmund Bauman. Ma sai che palle che ti fai, Parenzo? Già tu sei pesante. Ma come che da questo punto di vista ha ragione la signora De Nicolò. Ma scusa, ma che ci va a fare a cena col signor Bauman? Senti un po', sai che ci sta? Che gli do io 1000 euro per tornare a cena da Silvio Berlusconi. Dai, buttiamola così. Sono disposto a pagare 1000 euro per ritornare a Palazzo Grazioli, va bene? Certo, lo capisco, per carità, lo capisco. Beh, guarda che qua c'è gente che mi tampina. Mi ha tampinato fino a poco tempo fa. Dai, fammi andare da Silvio, ti do 1000. Ma donne? No, ma che donne, uomini, sì, anche donne. Per andare, per ottenere per favori. Per andare, conoscerlo e parlare. Ottenere favori, eccetera, eccetera. Ma io lo sento ogni tanto Berlusconi. Ma anche soltanto per conoscerlo, tutti conoscerlo e andarci a cena, offrire dei soldi addirittura per conoscere Berlusconi bisogna essere matti. Sì, cioè, c'è gente che pagherebbe per andarci e a me li hanno offerti. Il mondo è così. E allora sono disposta a pagarli io per tornarci. Ma ogni tanto lo sente, no? Figuriamoci. Dai, ma tu fai sempre queste domande un po' così. Beh, basta dire sì o no, non è un reato sentirlo. Cioè, non è un reato. Lo so, ma perché ve lo devo dire a voi? No, lo sentirà quanto? Una volta al mese? Parenzo, tu fai delle domande sempre... Sempre un po' fuori rotta, una volta a settimana, una volta al mese. Comunque, la cosa è questa: io non ho mai fatturato 24.000 euro. Se avessi guadagnato 24.000 euro in 6 mesi facendo la escort, mi sentirei che cosa? Una? Niente, una chiappa, una sfigata. Una sfigata. Grazie, un abbraccio. A presto. Grazie, un abbraccio fortissimo. Pubblicità, ciao. Pubblicità. Un abbraccio fortissimo. Bene, Parenzo. Sì. Che è successo? Tutto a posto lì a Atene? 21:14 ad Atene. Dove vai questa sera? Mi ha chiamato, mi ha mandato una mail un ascoltatore che frequenta... Sono depresso perché c'è solo il TG1. Vabbè, ma ormai sono già le 20:14, non ti preoccupare, fra poco il TG1 finisce. Tour nei giardini del Papa, ecco. Dopo ti faccio un regalo, ti faccio sentire i titoli della 7, così ti risollevi, almeno sto i titoli. Sto aspettando la producer del programma. Che alle 10 viene, mi viene a prendere e mi porta a mangiare del pesce, non lo so, andremo. La producer del programma, La producer greca del programma. La producer. Vabbè. Beh, è colpa mia se è una donna, ma chiederò un uomo la prossima volta. Una cosa pazzesca. Ma è colpa, adesso non ho capito, ogni cosa diventa oggetto di indagine. Piero da Pavia, buonasera signor Piero. Buonasera Cruciani, buonasera signor Parenzo. Senti, io innanzitutto li voglio ringraziare perché facendo da 22 anni il pendolare devo dire che avete trasformato le ore più noiose in divertenti, per cui grazie mille. Una premessa, volevo ringraziare anche l'avvocato Pecorella ad avermi dato la chiave di volta di tutti i miei insuccessi femminili del passato, perché adesso sono felice. Cioè lei non mollava mai nulla, perché mi ha fatto capire che bisogna pagare. Amico mio, però almeno la cena la deve pagare ogni tanto lei, amico mio. Purtroppo, insomma, almeno sono cose che si imparano anche dopo. Comunque, cioè lei andava a scrocco pure con la cena, con le donne che portava fuori? No, insomma, una volta toccava uno. Però alla romana, insomma, poi la romana era dura a concludere, quindi ho capito. È un numero, ne conosco un altro che fa così. Comunque, senta, io volevo concentrare nella sera in cui l'Italia ha identificato la nuova Maria Goretti del 2000 nella Arcuri, che ha resistito all'orco Berlusconi. Però io volevo. Sì, ma tutto deve essere verificato. Adesso noi stiamo scherzando, ma tutto deve essere verificato. Di che stiamo parlando? Su, stiamo sempre parlando di intercettazioni, uscite. No, esatto. Quello che dice io proprio su questo, perché tutte le volte quando si parla degli eventi appunto che stanno attorno al Presidente del Consiglio, si parla di eventi aleatori, dubbi, eccetera. Sì. Allora io, secondo me, c'è una notizia che è passata un po' in sordina, ma che è molto più importante. Cioè, io ho letto questa sera e sono rimasto basito, e la famosa memoria della parte lesa che doveva evitare poi il famoso confronto con i magistrati. Allora io, siccome quella è un fatto certo, cioè la memoria è quella di Berlusconi, dice lei, esatto, quella è sottoscritta dall'onorevole. Allora se lei legge e legge che praticamente l'onorevole dalla cassaforte tira fuori 500.000 euro in contanti, gli dà un terzo, che a questo punto la vita è quasi uno spallone, no? Perché poi quando parliamo di scudi, trasferimenti illeciti di denaro all'estero, li porta in Uruguay per darli a disposizione di un terzo che poi non li vede neanche. Allora io mi dico, lei la vede la Merkel che apre la cassaforte, fa queste cose all'insaputa poi degli avvocati che nello stesso verbale lo scaricano? Allora io, se la racconto mio figlio, sta cosa non ci crede. Quello che voglio dire è che mi dà l'impressione che il nostro Presidente del Consiglio sia in una difficoltà estrema. No, però scusi Piero, abbia pazienza. Il fatto che, al di là delle questioni giudiziarie, Berlusconi e quei soldi, a cosa servivano, eccetera, eccetera, cioè, qual è il punto? Berlusconi ha dei soldi in contanti dentro una cassaforte che fa prendere a qualcuno. 500.000 euro non è che sono, li metti in una busta, li mettere in una valigia, gli dà un terzo, non informa nessuno. Questo va in Uruguay per far fare l'imprenditore a chi? Mi dica, ma adesso onestamente, voglio dire, in questa situazione non mi sembra c'è qualcosa che non quadra. Ma sì, ma certamente allora c'è qualcosa, dico, che, ci può essere qualcosa perde, che non quadra. Ma io mi stavo soffermando su una sua osservazione, cioè sulla questione della, lei è stupito dal fatto che ci siano 500.000 euro dentro. Il Presidente del Consiglio, che rappresenta tutti, deve dare anche esempio. Comunque poi fa passare in sordina 500.000 euro in contanti. Ma veramente troppo in sordina non sono passati questi 500.000 euro, veramente sono finiti le intercettazioni, indagini, eccetera. Quindi ho capito, però poi alla fine lo ammette anche lui, quindi voglio dire, lui sta ammettendo di aver fatto una cosa che dal mio punto di vista è dal suo punto di vista è allucinante. Un attimo solo che ho il traffico. Ecco qui, intanto a risvegliare la... Hello? Hello? Is possible to have in the room TG5 or TG7, please? Con chi stai parlando? Hello? Okay. It's a room number Parenzo from Italy. Sì. In the room there is only TG1 Minzolini. Why? Ho capito, why? Che ti hanno risposto? Hello? Okay, thank you. Che ti hanno risposto? Che ti hanno detto? Pronto? Che ti hanno detto lì alla reception? Detto che è la televisione, il satellite prevede solo che c'è il Rai 1. Io ho detto TG5. Scusi, ma di... Minzolini non hanno capito niente, only Minzolini. No, ha detto. Su Minzolini non hanno detto, non capivano. Non capivo, detto... giustamente. Ma perché in Grecia non conoscono Minzolini? Ma non lo so perché non conoscono. Avranno... Pensa se in questi giorni di disastro ci fosse in Grecia un signore come Minzolini che dice: no, ma qua va tutto bene, come tutto bene? Nessuno prende un cazzo, come tutto bene? Dice: no, la situazione è tutto tranquilla, mica tanto, comunque. Ah, tu dici che un Minzolini greco, secondo me l'andrebbero a prendere con i forconi in Grecia. No, questo lo so, però sarebbe bellissimo. Dalla TV pubblica mi domanderei, cioè, vorrei domandarmi sì. cosa potrebbe accadere. Non pensare, se ci sì, però tu devi essere sempre il solito con Minzolini, sta pure no, in Grecia, pure sei in Grecia, ad Atene, e pensi perché vedo il TG1 e non... cioè sei malato, cioè sei fissato, sei ossessionato. Ostaggio. 2 ore in camera e l'unico telegiornale che c'è, a parte la TV greca, di non capisco nulla perché urlano. Ma ci sono migliaia di ascoltatori che mi segnalano che tu puoi prendere con delle chiavette, con mezzi tecnologici, puoi vedere qualsiasi cosa, amico mio. Sei tu che sei indietro, sei indietro. Adesso ti faccio sentire un po' di TV greca. Guarda, no, no, no, per carità. I titoli della sette, così ti risollevi un po', poi ti presento un ospite, anche questo è una persona che conosci. Che devo fare? Conosci sempre tutti. Vabbè. Chiusa l'inchiesta di Bari, 8 indagati, 100.000 intercettazioni che però non sono trascritte negli atti. Tra i capi di imputazione, associazione per delinquere, favoreggiamento alla prostituzione nel presunto giro di escort portate nelle residenze di Berlusconi dall'imprenditore Tarantini, anche alcune showgirl. Manuela Arcuri però disse di no. E dal giudice di Milano, proprio per un'intercettazione che non lo riguardava, arriva la richiesta di imputazione coatta per Berlusconi, l'accusa di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio nella vicenda Unipol BNL. La telefonata tra consorte e Passino, quella della frase «abbiamo una banca», non ancora trascritta e legata agli atti, fu pubblicata dal giornale. E per il GIP favorì il Premier alle elezioni. Il PM aveva chiesto l'archiviazione. E su tutto questo ovviamente insorge il PDL, che parla di velleità golpiste da parte dei magistrati, soprattutto quelli napoletani. Il Premier convoca i suoi uomini a Palazzo Grazioli dopo aver incassato ieri il no del Quirinale l'ipotesi di un decreto legge sulle intercettazioni. Il presidente della NM dice strumento indispensabile, ma bisogna stralciare quelli irrilevanti. Giusto, ma lo dica alle procure, è la replica di Cicchito. La manovra approvata ieri unisce nella protesta sindaci di centrodestra e centrosinistra. Fassino, Pisapia, Alemanno, altri primi cittadini chiudono simbolicamente le anagrafe, distribuiscono volantini, tagli, dicono, rendono impossibili i servizi primari. Oggi le grandi banche centrali sono intervenute a suon di dollari per aiutare l'Europa e le borse hanno spiccato il volo. Andrà in onda, anzi no, retromarcia della RAI, il Consiglio di amministrazione non approva il contratto della trasmissione Parla con me, messo a punto nei giorni scorsi. È un'occupazione politica, sentenza Serena Dandini. Il presidente Galimberti, decisione incomprensibile. E ora dove andrà? Sarkozy, Cameron in Libia per incontrare i nuovi leader del paese, parlare del dopo Gheddafi, entrambi promettono... Altrimenti facciamo notte, Parenzo. Ma qui uno sta mandando in onda un servizio dal titolo C'era una volta il calzolaio. Vabbè, ho capito, ma anche la 7 alla fine del telegiornale, che sono le 20 e 24, magari manda in onda qualche servizio leggero. C'era una volta il calzolaio. Senatore Butti, Alessio Butti, Commissione di Vigilanza Rai, buonasera. Buonasera. Ma perché buonasera, Parenzo è così ossessionato da Minzolini? No, io non sono ossessionato. No, lei, Parenzo, non lei, Parenzo, ha detto. Parenzo, è ossessionato da Minzolini. Probabilmente l'ha picchiato quando erano piccoli, io non ho idea. E quindi ci è rimasto male. Che dice? Mi hanno mandato un SMS dicendomi che Parenzo ha annunciato che io avrei chiesto di intervenire alla trasmissione. È falso. No, abbiamo chiesto noi, assolutamente noi. No, l'abbiamo chiamata noi. Ma che no? No, ho detto che era, ho detto tutto, ricevuto un SMS più dolce e carino da Parenzo. Io ho detto a Parenzo. Pubblichiamolo. Prendiamo pubblico l'SMS. No, allora, perché non so cosa abbia detto Parenzo prima. Io ho chiesto a Parenzo, puoi mandare un messaggio al senatore Butti se ha voglia di intervenire sulla questione della Dandini, insomma sulla questione della RAI di attualità, e semplicemente Parenzo poi magari si è lasciato andare, ha detto qualcosa di sbagliato in diretta, no, non lo so, devo ascoltare. Ho scritto il messaggio dicendo hai voglia. Vabbè, adesso è inutile che metti in piazza il nostro metodo di reclutamento degli ospiti. Ma no, cioè, non ho scritto semplicemente hai voglia di intervenire alla Zanzara, no, mi ha detto no, sì, forse sono... premesso che Cruciani sta alla radio come un diabetico a una crostata di marmellata, vuoi ugualmente intervenire? Eccomi. Allora, senatore Butti, intanto si discute questa sera, per fortuna, di quello che ha detto l'avvocato Pecorella qui alla Zanzara, Radio 24. Che ha detto Pecorella? Poi una cosa giusta, vera e sensata. Che ci vuole un governo di larghe intese anche senza Berlusconi, questo ha detto subito. Dunque, via questo governo, governo di larghe intese. Siccome l'ha detto l'avvocato Pecorella, PDL, eccetera, la cosa farà discutere, poi lo sentiremo più avanti, eccetera. Però non è nuovo a uscire di questo genere. Però questa non l'aveva detta, non è che ci vuole affossare la notizia. Si sta smontando tutto, amico mio! E poi c'è la Lega scatenata contro Panorama. La cosa è a difesa della moglie di Bossi, perché c'è un articolo di Panorama, Lady B, imperatrice della Padania. Di Cristina Giudici, gestisce l'agenda del marito, stabilisce chi affiancarli, chi premiare, e ora sta combattendo la lotta contro i maroniani ribelli e dissidenti che non le perdonano di trattare il partito come un bene di famiglia da destinare al trota. Questa cosa ha fatto scatenare alcuni dirigenti della Lega. Vabbè, ma non ci frega niente di questo. Avete fatto fuori la Dandini allora, senatore Butti, no? No, cioè, centrodestra, diciamo. Ma assolutamente. Come è no? una decisione aziendale. Adesso io non so cosa abbiate detto prima. No, nulla, sulla Dandini nulla. Che purtroppo ero in macchina e quindi non ho neanche potuto vedere le ultime agenzie. Io credo che è una decisione giusta? Ma guardi, non hanno raggiunto un accordo, evidentemente, perché lei sa che la Dandini aveva 14 autori. Cioè, dico, per una trasmissione dove una signora si siede e fa 4 domande banali al suo interlocutore, 14 autori. Beh, non c'è solo quello, però, oggettivamente. Butti, abbia pazienza. Cioè, lei capisco che non abbia particolare simpatia per la signora Dandini, però quella trasmissione non è che c'aveva solamente lei che si sedeva, come dice lei, facendo 4 domande. 14 autori, francamente, tutti a spese della RAI, e cioè del contribuente, francamente mi sembrava un po' tantino. Allora gli è stato chiesto all'epoca di cominciare a rinunciare, di tagliare, così come stanno tagliando un po' tutti gli italiani, no? Evidentemente anche i costi. Si è un po' irrigidita la casa di produzione, poi tra l'altro lì sapete che il format è RAI, quindi la RAI è libera di fare quel che vuole con i propri format. E quindi probabilmente non hanno trovato l'accordo. Io pensavo che le proponessero. Scusi, il capo della Fandango, che si chiama Procacci, ha detto che è una decisione politica. Una decisione tutta politica. Scusi, Cassano non gioca, è una decisione politica. In autostrada si va troppo lentamente, è una decisione politica, ormai è così ovunque, no? Le decisioni, quando non si sa cosa dire, cosa rispondere, si dice: ah, ma è una decisione politica, ma le pare che la politica si possa occupare di una signora e di un comico? Beh, È successo che la politica, anzi, succede, ma succede quotidianamente che la politica si occupi di televisione anche di cose di cui non dovrebbe occuparsi. Che me lo dica lei, senatore Butti, mi stupisce. È come se ne occupa la politica, ha voglia. Certo che si ha proposto lei la doppia conduzione. La politica, prego. Ha proposto la famosa doppia conduzione. Per cui figuriamoci se la politica non si occupa di queste cose. Ma certo, assolutamente no, perché siete ancora ancorati ad una gestione della RAI vecchia, cioè quando vecchia? Era veramente la politica che alzava il telefono e diceva: questo deve andare in onda, questo deve fare il direttore. Oggi, guardate, ma perché oggi come funziona? Scusi, grazie al cielo. Oggi funziona nello stesso modo. Comunque, un attimo solo, abbiamo la pubblicità e torno subito da lei. 800 24 00 24. Ruffini, ancora per pochi giorni direttore di Rai 3, dice: preoccupa e sconcerta la decisione del CDA a maggioranza 5-4. La Dandini per il momento, perché poi in Italia non c'è nulla di certo, per il momento non farà la trasmissione. Siamo qui alle 20:36, caro Parenzo, in diretta da Atene, dove sono le 21:36, dunque è ora di andare a mangiare. 21:37, ora di andare a mangiare dalla sua macchina Alessio Butti, onorevole Alessio Butti del PDL, capogruppo in commissione di vigilanza RAI. Stiamo parlando della vicenda Dandini, la signora Dandini, che al momento è esclusa dai palinsesti RAI. La Fandango dice che la casa di produzione, stiamo cercando altre strade, è una cosa incomprensibile, addirittura una decisione politica, l'azienda è sotto occupazione politica, dice la Dandini. Butti, ma è una cosa clamorosa, sotto occupazione politica, sembra l'occupazione, come se si parlasse dell'occupazione nazista, una cosa del genere. Sì, ma non ci crede nessuno, Cruciani, mi scusi. ma non ci crede veramente nessuno. Qual è l'occupazione politica? Cioè, dove stanno i conduttori che non rispecchiano una cultura che non sia quella affine al centro-sinistro? Ma di che si parla? Però scusi, ma non avete trovato un accordo sulla questione del budget? Di questa, è inutile andare adesso nei dettagli, cioè, ma non è vero. Infatti sembrava che fosse stato trovato un accordo, no? Con un risparmio del 5% anche rispetto a... Ho capito, ma risparmio del 5%, mi scusi, una presa per i fondelli per tutti gli italiani che pagano il canone, che stanno facendo sacrifici. Insomma, la signora Dandini, come tutti gli altri conduttori Rai, sì, tutti squisitamente di sinistra, sono straricchi, sono ricchi a strafottere, e quando i sacrifici li fanno gli italiani, tutti quanti, sì, è giusto che lo facciano anche loro. Come lotta, però, come lotta! Mamma mia! Come lotta, sì, come lotta, sono straricchi. Sì, saranno ricchi perché magari qualcuno gli dà i soldi. Però fino adesso... Voglio fare a lei apparenza un'altra sì, domanda, ma voi pensate veramente che in Rai non ci siano delle professionalità in grado di poter crescere e magari di diventare le Dandini o il Santoro del futuro? È chiaro che se gli spazi sono chiusi e la Rai non investe sui giovani professionisti, sui giovani giornalisti interni, peraltro, interni, capisce? Interni. Sì, scusi, però sì, no, per carità, dimmi che vuoi dire, Parenzo. No, che voglio dire al senatore Butti, che peraltro si intende di televisione perché se ne è occupato anche nel suo passato, ma c'è un criterio in televisione, cioè la signora Dandini, al netto di tutto, della pubblicità, di quanto costa, eccetera, funziona o non funziona? Il resto è fuffa politica. Allora faccio una domanda a Butti: per la Rai è una perdita grave o no quella da Dandini, oppure se ne può fare a meno? Lo dica chiaramente, Butti, dica, tiri fuori quello che pensa davvero. Ma secondo lei io non tiro mai fuori quello che penso per davvero? No, infatti questo lo ripeto. Così, quindi, dal mio punto di vista, ci sono 100 Dandini all'interno della Rai che potranno fare anche molto più share, potranno essere molto meno faziose dal loro divanetto rosso, questo no, perché come noi non abbiamo influito in alcun modo in questo tipo di decisione, è evidente che la politica non può scendere, non può scegliere i conduttori. Ci sono 100 persone come la Dandini, benissimo, no, ma basta saperlo. Sono convinto, io ogni tanto vado in Rai e vedo questi professionisti, queste giovani professioniste veramente molto brave. Che non costano come la Dandini, dice lei. Che non contano come la Dandini, non costano. Evidentemente qualche appoggio come la Dandini, perché insomma, in fin dei conti, parliamoci molto onestamente. Quanti minuti teneva la Dandini, presentava questa trasmissione, quanti ce ne sono in grado di poterlo fare? Cioè, lei dice che è una schiappa? No, non dico questo, dico brutto che è una buona professionista, che sicuramente il buon Ruffini, visto che è intervenuto con qualche agenzia e che fa ancora direttore di Rai 3 per qualche giorno per poi passare, e qui anche qui la politica non c'entra niente, perché è stato il mercato a dettare il passaggio di Ruffini da Rai 3 alla 7, vorrà dire che Ruffini, se la Dandini effettivamente funziona, se la porterà alla 7. Ma allora perché Santoro alla fine non ha chiuso il contratto con la 7? Perché gli altri broadcaster non prendono questi soggetti? O perché costano troppo o perché sono dei piantagrane? Ma insomma, tutti quelli che costano troppo, che sono dei piantagrane, tutti in Rai ci devono finire? Come lotta? Come un leone pazzesco. Però dico una cosa. No, scusi, non butti, però voglio capire, Ruffini dunque è in uscita e secondo lei non può parlare a questo punto? Cioè, sarebbe opportuno che tacesse sulla vicenda? No, io credo che sarebbe buona cosa se ogni dirigente lautamente pagato con il canone della Rai smettesse di esternare contro la propria azienda. Guardi, questa è una cosa che non sta al mondo. Non c'è broadcaster che consenta una cosa del genere, solo in Italia la Rai lo consente. Lucia Annunziata dice addirittura che non risponderà più al paragone, però non è stato tenero. Lucia Annunziata deve rispondere alle quattro persone che la vedono la domenica pomeriggio, le chiama tutte e quattro per nome e risponde tranquillamente. Ma chi è Lucia Annunziata? Butti, anche il mio amico Paragone però ha fatto una bellissima intervista al Corriere, il mio amico Paragone, dicendo delle cose giuste, perché ha detto delle cose che anche lei pensa. Ma lo sa che stasera il direttore generale della Rai, Lorenzo Ledo, doveva intervenire qui, il signor Paragone, e il direttore generale Rai, dopo l'intervista che ha fatto al Corriere Sera, ha impedito a Paragone di intervenire qui, lei lo sa. È una cosa pazzesca, Senta, scusi, le posso fare una sintesi di quello che avrebbe detto Paragone? Sì, quello che abbiamo Paragone. Letto su Corriere della Sera, spero che spero qualcos'altro, no, altrimenti no, lei ci... Paragone, che è un buon professionista, perché io lo sì. conosco ovviamente, è un ottimo professionista, però ha fatto pipì fuori dal vaso, insomma, perché in un'altra intervista, non quella al Corriere, ma quella al Secolo d'Italia, così faccio anche un po' uno spot al giornale di cui sono consigliere d'amministrazione, sì. in una lunga intervista sì. ha detto che lui, che orientativamente è di centrodestra, sì. anche se nessuno se ne è mai accorto... Beh, oddio, come no? Ma dai, su. Beh, è entrato in Rai, adesso lui non, se dovesse votare non voterebbe più né PDL né Lega, e arrivederci, tante grazie. Ecco, secondo me anche un atteggiamento di questa natura, un po' presuntuoso se vogliamo, perché Paragone, che pure è bravo, non è entrato in Rai perché era bravissimo, capisce? No, perché era in Rai? Perché evidentemente... Perché era in quota Lega, lo dica pure, in quota certo, Lega. Per sua stessa missione era in quota Lega, è certo che lo dico, e vuole che non lo dica. Dunque adesso è un ingrato? Adesso è un ingrato? È un po' ingrato, io l'ho anche cercato per dirglielo, lo so che si è offeso delle mie dichiarazioni di ieri, ma francamente me ne può importare. Ma scusi Butti, però lei lo sa meglio di me, Paragone è prima di tutto un giornalista. Avrà poi allora, le sue idee, ma è un giornalista, quindi fa il suo prodotto editoriale, e allora, lotta come un leone, fa il suo share. Perché bisogna mettergli il cappello sulla testa e adesso digli ah, ingrato. No, ma lui sta dicendo un'altra cosa, Butti sta dicendo un'altra cosa, Butti sta dicendo un'altra cosa. Butti sta dicendo un'altra cosa, che dire, se siccome uno che è entrato in quota Lega, comunque in quota centrodestra alla Rai, e non era, come dice Butti, un fenomeno, non perché fosse bravo, eccetera, non è che adesso se ne può uscire dicendo facendo quel tipo di interviste, ma il PD. Ma basta con questa roba dei padrini. Ma questo se lo dice Butti. I giornalisti alla Rai, bisogna avere i padrini politici. Basta, lo dico da Atene, in diretta da Atene. Dico basta. Che copione che è Parenzo. Ma perché non state dicendo la stessa cosa però, eh? No, scusi, però vuole che adesso le dico una cosa, che sono molto serio in questo momento, sì, ero serio anche prima naturalmente, no, io adesso lo sono ancora di più perché parlo di una persona presente tra noi tre, insomma. Sì, sì. Allora, questo per dirle quanto conta la politica in Rai in questa fase. Durante una riunione importante, io ho fatto un nome che secondo me poteva essere un conduttore di un programma di approfondimento al di sopra delle parti, perché noi non cerchiamo ovviamente di occupare spazi come fa la sinistra, al di sopra delle parti. Scusi, chi era, per curiosità? No. Ecco, allora io ho fatto il nome di Cruciani. Sì. Non sto scherzando, Cruciani. Ma perché mi devi mettere in difficoltà? No, ma infatti non la metto in difficoltà. Ma non adesso, non adesso, in generale. Comunque, vabbè. Allora, no, le devo dire che a quella proposta mi hanno guardato e mi hanno detto: ma sai che hai ragione? Ma sai che potrebbe essere effettivamente un buon conduttore per approfondimenti? Scusi, dica a tutti quanti, per far capire quanto conta la politica, ma lei è stato chiamato? No, veramente no. E allora, per fortuna. E questa no, non dica per fortuna no, perché è sempre una cosa importante essere chiamati sì, per e carità. Non con il cappello politico, Cruciani. No, no, importante. Sì, per carità. No. E allora, vedi, questo è quanto conta la politica. Quante notizie, Un racconto adesso ci sta raccontando questa cosa qua per dire che secondo lui la politica conta poco. In realtà non è così. Guardate, cioè. No, Cruciani, allora ancora più serio. In questo momento c'è un direttore generale che è veramente in gamba, che è veramente capace, c'è un consiglio d'amministrazione che molto spesso si frattura su alcune decisioni importanti, ma è certamente un consiglio d'amministrazione di qualità, e c'è un management all'interno della RAI che certamente è di qualità. Scusi, però, e che deve lavorare indipendentemente dai padrinati politici. D'accordo, però è grave, onorevole Butti, la situazione è grave. No, d'accordo, però se non volevate fare questo programma, ma non era il caso di dirlo 3-4 mesi fa, prima, quando è finito? Cioè non si può arrivare a settembre a dire e dire no, non si fa più, perché poi ci sono delle implicazioni politiche, ci sono delle questa cosa viene. Non c'è alcuna implicazione politica, fermo restando che lei sa meglio di me che in Rai non si dice mai e non si pone mai la parola fine su un certo tipo di rapporto. Io so, perché lo so, che ci sono stati contatti lunghissimi tra la produzione, tra la Dandini, tra e con la Rai, perché nessuno aveva intenzione di farla fuori. C'è la necessità in Rai di risparmiare, Dunque c'è solo questo motivi per cui Santoro, scusi, ma ha capito che anche Santoro non fa la vittima politica, un motivo ci sarà. Uno dei motivi per cui Santoro a un certo punto ha detto: sapete che c'è? Me ne vado e vado rispondo al mercato. Era perché la Rai non era più disponibile a pagare quello che pagava, centinaia e centinaia e centinaia. Non solo solo per quello, non solo per quello. Ma allora è così, ma mi dica allora, sfido io, mi dica cosa no, c'è. No, non solo per quello, insomma, alcune cose che sono state dette su Santoro, eccetera, qualche problema lo dava evidentemente a qualcuno. Il vaffan bicchiere col signor Masi, cose. Ma lei ha notato che anche il PD alla fine non è che si è stracciato no, non le vesti, si straccia le vesti, non c'è dubbio, non si straccia le vesti. Allora, perché la decisione è politica? Chi lo dice che è una decisione politica? Io credo che la RAI abbia fatto una operazione corretta. Con la Dandini, dice lei, con la Dandini? Con tutti quelli che non accettano un certo tipo di contratto, che non accettano un certo tipo di regole. Il contratto deve essere inferiore per tutti. Cioè lei dice che stanno stringendo la cinghia. Lei dice nella vicenda della Dandini non c'è nulla, ma proprio nulla che riguarda la politica, niente. Guardi, mi creda, la politica francamente, anche perché era un programma di satira. Ora però voglio dire una cosa. Non è che la Dandini fosse veramente al di sopra delle parti, nonostante il suo fosse questo, il programma. Questo non c'è dubbio, guardi, questo non c'è dubbio. Io questo le dico che quando ho visto un elenco di 80 invitati nel corso di una serie di sue trasmissioni, di centrodestra ce ne saranno stati uno, forse due. Sa quante volte è andato Scalfari a trovare la signora Dandini? Ma non se ne può più di queste cose qui. Ma non se ne può più. Traffico, veramente. Torniamo subito per la conclusione con onorevole Butti. Chiudiamo qui con l'onorevole Butti. Parenzo, no, ci sei ancora? Mi è venuta un'idea. Che idea ti è venuta? Avanti. Che dovremmo fare più spesso dei duelli. Ad esempio, io sogno di fare un duello alla Zanzara. Con chi? Tra Scalfari e Borghezio. Ma che adesso? Me l'hai già detta questa cosa ieri sera a Roma. Tra cioè, Maurizio lei si rende Paradiso, conto, onorevole Butti, che ieri. Oppure ieri tra sera, Maurizio Paradiso e Monsignor Fisichella. Sì, ho capito, ma non è possibile. Ma a parte che però è un format. Ma la Zanzara non ci sono i duelli. Tu sei ancora vecchi format, i duelli. Quello lo possiamo fare da un'altra parte. Lo faremo da un'altra parte in un'altra Scalfari vita. Scalfari versus Borghezio. Ma tu ti immagini cosa succede? Scalfari e Borghezio. Sì, c'è un problema che deve accettare il signor Scalfari. Mi pare molto complicato. Mi pare molto difficile che accetti un confronto con il signor Borghezio. Padania libera! Ti immagini quando si mette a urlare Padania cristiana mai musulmana, che faccia fare il signor Scalfari ad esempio. Allora, che succede? Minzolini ho sentito l'editoriale hai sentito? Lapidazione mediatica serve una legge e proteste da parte dell'opposizione. Che ridi con questa risata? Scusa, ma lo chiedo, Minzolini non può fare un editoriale sul TG1? No? Spiegami, qual è il problema? Qual è il problema? Sentiamo di cotto e di crudo ogni giorno, gente che dice qualsiasi cosa, intercettazioni che escono a iosa, interpretazioni le più varie. Minzolini dal TG1 non può dire che c'è una lapidazione mediatica che serve una legge. No, legge che non si farà peraltro, perché Napolitano non vuole. Di che stai parlando? Hai ragione su tutto, ma mi fa sorridere perché però mi pare che abbia portato consenso a Berlusconi Minzolini. Se poi dobbiamo andare a guardare, non mi pare che ci sia tutto questo consenso. Allora dov'è l'influenza di Minzolini? Ma mi fa sorridere come l'hanno impaginato. Perché hanno messo l'editoriale tra il calzolaio e la mucca della montagna che fa mu. Ma non è vero, questa è la tua invenzione, l'avranno messo in testa, ti pare che l'hanno messo tra la mucca? No, cioè, no, era in fondo, l'ho visto in fondo, ho visto tutto. Vabbè, avrà fatto tardi, che ne so, l'avrà scritto in ritardo, l'avrà montato dopo. Mi scrive un sottosegretario del governo, ti scrive, al quale non rispondo perché sono ad Atene e Costa, e scrive: fate il duello Scilipoti D'Alema. Anche questo è geniale. Scilipoti D'Alema, io mai Scilipoti dopo l'altra sera che non la voglio più. Vabbè, onorevole Butti, ma questo divanetto, le domande della Dandini sul divanetto, che domande erano? Erano domande innanzitutto? Beh sì, sicuramente erano domande, bisognerebbe chiederle ai 14 autori, insomma, forse lei leggeva e quindi bisognerebbe chiederlo ai 14 autori. Quanti dovrebbero essere gli autori, scusi? Quanti dovrebbero essere? Ma che ne sa, onorevole Butti? Non è che sa quanti autori dovrebbero essere. Erano troppi, secondo lui. Costava troppo. Ma no, non secondo me, secondo qualsiasi persona dotata di buon senso. Insomma, ma si può portare 14 autori pagati dal canone? Ma dai, ma non scherziamo. Vabbè. Non c'è proprio. Adesso però posso farvi ridere. Però torna, è possibile. Ma quanti siamo alla Zanzara? No, ma lasciamo perdere. No, torna. Cioè, è possibile che ci sia alla fine un accordo finale, oppure pensa che ormai sia impossibile? Se lei accetta e la sua casa di produzione accetta le proposte della RAI, mi creda, non c'è alcun pregiudizio di natura politica, per quello che dico mai dire mai. Quindi può veramente accadere tutto, però mi faccia concludere con una battuta non su Minzolini, però sulla Berlinguer. È strano che nessuno si accorga di che cosa accada all'interno del TG3, dove abbiamo un direttore che conduce il TG. Sì, vabbè, questo non è strano. Che, no, questo non è strano, ma al momento è l'unico. E vabbè, meno male, meno male che ci mette la faccia. Già da tempo, no, già da tempo. Anche il direttore Mentana commenta le notizie in diretta, Rai, come spesso è accaduto. Sì. Poi conduce anche lo spazio serale di informazione, di approfondimento sul TG3, su Rai 3. Cioè una zarina, dice lei. Beh, a parte che è una zarina, insomma, il telegiornale, il TG3, è veramente, credo che stia facendo impallidire Telecabul di Sandro Curzi per come lei imposta. Ogni volta che viene alla Zanzara deve dare una frecciata alla signora Berlinguer. Io adoro Bianca Berlinguer, non so perché, ma non... Io non entro nei suoi sentimenti, Cruciani. No, non è i sentimenti, perché è talmente, un telegiornale è talmente... No, ma è un telegiornale talmente schierato alla fine, poi talmente in maniera aperta con il Partito Democratico, diciamo la verità, appunto, quella. Poi riflette anche l'equilibrio all'interno del Partito Democratico che insomma, ma è un servizio pubblico, Cruciani. Lo so, ma lì pubblico, nessuno può permettersi di essere aperto con un partito all'interno del servizio pubblico Rai. Per concludere, vorrei farvi sorridere perché la vostra collega di redazione non solo mi ha fatto fermare, io ero in autostrada in una piazzola di sotto, mi ha fatto togliere l'auricolare, eccetera. Ero qui che parlavo, si è fermata la polizia e mi ha chiesto se andava tutto bene. Ho detto sì, sto solo facendo un'intervista con Cruciani e Parenzo, sai, allora sono fermo qua. Allora se ne sono andati con l'ampeggiante acceso. Pensate cosa mi fate fare. Grazie. Meraviglia. A voi. Grazie, dobbiamo chiudere. Salutami Atene. Buonanotte Atene, a domani tutti gli ascoltatori che sono in attesa. Li riprenderemo domani, non vi preoccupate, siamo sempre qui. Dai, ma 24.000 euro infiniti, ma che ci faccio? È già Barboni, no? Ma dai, quella cifra lì mi fa cagare. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire! Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.